Benvenuti, bentornati all'episodio 17 del nostro Focolare Elettrico, podcast di giochi e game design, alla puntata intitolata Unskippable Credits, ovvero in quel momento, no, per continuare la nostra rappresentazione simbolica del gioco, a quello che c'è di solito dopo il finale, ovvero all'inizio, se sei qualcuno che conosciamo, ma questo più ne parliamo dopo. Come dicevo, la parte veramente finale di un gioco sono, come per un film, i crediti alla fine e di tutte le persone che hanno contribuito e lavorato al titolo. E una piccola battuta per i non addetti ai lavori: in questo caso abbiamo messo unskippable credit, ovvero i credit non skippabili, non saltabili, perché per quanto triste che sia, la maggior parte dei giocatori tende un po' a saltare questa parte, no? Come quando si esce dal cinema senza aspettare la fine dei credit. Grazie Marvel che hai costretto i fan a restare lì seduti a Zimmer. È per questo che i nostri nomi li diremo alla fine di questo episodio. Così sarei in dubbio. Ok, ci sta, non me l'aspettavo. bravo, mi hai messo il bastone tra le ruote. Ma... E quindi direi di iniziare a questo punto subito la puntata, introducendo anche una nuova rubrica che ci siamo sentiti in dovere un po' di aggiungere per rendere più, no, informativo anche sull'attualità, sull'attualità nel mondo dei videogiochi. E quindi partiamo subito con la nostra rubrica di Download Updates, dove il nostro caro Jacopo ci parlerà di che cosa è successo ultimamente nel mondo dei videogiochi, no? Sì, diciamo, anche questa rubrica la faremo un po' a casaccio, cioè a volte sì, a volte no. È come tutto, no? Cioè, ogni tanto, come nei migliori videogiochi, ogni tanto le cose funzionano, ogni tanto no, poi si salta per via del bug o qualche conflitto di collisione. Però siccome questo episodio è più, dicevamo, no, la skippable credits è su le persone che ci sono dietro a un videogioco, quindi un po' più sull'industria, abbiamo pensato, ok, siccome questa settimana sono successe 500.000 cose nel mondo dei videogiochi, magari ne parliamo un po'. Assolutamente. Per chi sta ascoltando questo episodio nel futuro, prima di tutto siamo fortunati ad essere sopravvissuti. Esatto, intanto. Spero vada tutto bene. Sei molto fortunato. E sono contento per voi, ma soprattutto, forse spero vi sarete già scordati, non del COVID, ma di COVID. Cos'è il COVID? Sono cose più importanti. Ma del casino con i pre-order. Praticamente, questi giorni, stiamo parlando di fine settembre più o meno, seconda metà di settembre, c'è stato un po' di baraonda, un po' di ci sono stati un po' di problemi con il fatto dei pre-order di PlayStation 5, Xbox Serie X e Nvidia 3080. Quindi, prima di tutto, Sony per la PlayStation 5 ha fatto una presentazione con dei giochi molto attesi e subito dopo ha detto: ah, domani mattina si aprono i pre-order. Giustamente tutti i negozi hanno detto: ah, domattina, vabbè, dai, a sto punto facciamolo adesso. Un macello, tutte persone che si insultavano, bot che ordinavano 100.000 PlayStation 5, cioè insomma un bordello. Qua ci stava, sai, la classica scena dell'impiegato al GameStop con la tazza di caffè o il bicchiere d'acqua lì a fianco, e poi dopo a mo' di Jurassic Park c'era il tremolio esatto. Nell'acqua e poi la folla di gamer infuriati. Esatto, fanno incerociti di nerd nutellosi come me. io infatti non sono riuscito a prendere la PlayStation 5 perché quando sono usciti i pre-order io ero in macchina ad accompagnare mia nonna dal dentista. Quindi... Cioè, quindi hai gettato la nonna fuori dalla macchina. Ho buttato nonna fuori, letteralmente, ti giuro, nel giro di 5 minuti che ero in macchina a guidare sono finite le PlayStation 5 su Amazon Italia. e quindi non ho potuto preordinarla per ora. Vabbè, poi sono stronzo io che potrei dare meno soldi a Jeff Bezos e ordinarla da un'altra parte, però vabbè, sono lei, sono io. Quindi hanno detto, ok, tutti quanti a insultare la Sony si è scusata, possiamo fare di meglio, ne avremo altri in futuro disponibili, ok. Che succede? La Microsoft prende per il culo Sony e dice, ah, ma noi sappiamo tutti gli orari precisi, no? I nostri partner saranno bravi, metteranno le console all'ora giusta, così. E quindi, capito, prendono per il culo Sony. Nel frattempo, la Nvidia lancia la scheda grafica 3080, stessa cosa, tutti i bot, gente che ha programmato, che ha fatto dei programmi per comprare delle schede video e rivenderle. Tipo Bagarini con i biglietti dei concerti, capito? Tutta gente impanicata, come se fosse la carta igienica, non so, il pane, durante il COVID. Cioè. Pulirsi il culo con una 380 deve essere bello. No, ma c'è gente che... proprio impazzita, come oddio, non ci sarà più una 3080 in futuro, vabbè. Anche lì, giustamente, la Nvidia si prende un bel po' di insulti, perché, vabbè, l'ha gestita un po' male, cioè la gente non ha avuto manco la possibilità, io dico la gente vera, non la gente che aveva... Abbiamo anche un nostro conoscente che si è lamentato. Esatto, si è lamentato anche troppo. però, vabbè, ci sta, questa è gente, secondo me, che ha meno diritto, perché dice, ok, è vero che volevi la versione quella figa, Founders Edition, eccetera, però ci sono 5.000 altre aziende che fanno 3080 con i design della Nvidia e quindi puoi comprare da loro se la vuoi la scheda. Quindi andiamo avanti. Arriva martedì 22. È ancora inizio settimana, non siamo neanche a mercoledì. Non siamo neanche a mercoledì. Arriva martedì 22 settembre, escono i pre-order della Series X. Io... Ci riesco perché sto lì a premere F5 e a premere sul link finché non mi finisce, cioè errore 503 non finisce. Però giustamente tanta altra gente si lamenta, cioè roba di link che non funziona. Tipo in America un tizio ha messo l'Xbox nel carrello, è andato a pagare e il carrello era vuoto. Quindi poi ha provato a riprenderla e il sito gli diceva, no guarda, te l'abbiamo già data l'Xbox, tu puoi prenderne solo una. Però il carrello era vuoto. Insomma, casini di vari negozi, tipo la pagina di GameStop per l'Xbox era tipo diceva, sei in coda, non refresciare la pagina, ma nel codice JavaScript c'era un timer che ogni 30 secondi refresciava la pagina da solo, quindi c'è gente che è rimasta con quella pagina senza mai andare avanti, perché era una cosa finta, e quindi insomma, tanto delirio. Ma, nonostante tutto questo... Non è stata la vera notizia bomba, perché in realtà ho saltato il motivo. Prima di cambiare argomento c'era anche quella cosa, non so se hai vista, della gente che ha comprato il modello di Xbox sbagliata su Amazon. Oddio. Che a quanto pare... è vero. È stato un incremento tipo del 700% delle Xbox disponibili al momento che... hanno un nome estremamente simile al nuovo, al nuovo modello, sì. E quindi la gente su Amazon ha fatto confusione e ha dato soldi alla Microsoft per qualcosa che, come dire, era già in circolazione da... Ora, io spero che o erano dei bot programmati male o erano dei genitori che magari non sono esperti e che si renderanno conto dell'errore a breve. Perché se no veramente ci sono tanti Natali rovinati per colpa della Microsoft di questa nomenclatura strana. No, le classiche cose del ti ho regalato il Nintendo e apri la scatola e c'è la PS1 dentro. Comunque, uno dei motivi per cui c'è stato questo casino anche per l'Xbox, che sembravano così, diciamo, in svantaggio rispetto alla PS5 per la prossima generazione di console, è che il giorno prima... c'è stata la vera notizia bomba di questa settimana, di cui vi dobbiamo parlare perché l'episodio è un po' correlato, no? Cioè che la Microsoft ha acquistato ZeniMax Media e le sue IP, le sue proprietà intellettuali. Allora, ZeniMax Media è una specie di contenitore, immaginate una scatola con dentro... Bethesda, quindi Fallout, The Elder Scrolls, quindi Skyrim, e tante altre belle cose. E poi c'è, che ne so, i D che sono quelli di Doom e di e Machine Games, che sono di quelli che fanno Wolfenstein. C'è, sono quelli che fanno, che stanno facendo Ghostwire Tokyo, che hanno fatto Evil Within. Ci sono i tizi che stanno facendo Deathloop, che hanno fatto anche, vabbè, i vari Dishonored. Cioè, tantissimi IP, tantissimi talenti che sono in mano a Microsoft ora. O meglio, è un accordo di acquisto, è costato 7,5 miliardi questo gruppo, questo acquisto, che si finalizzerà tipo a luglio dell'anno prossimo, perché fare acquisti del genere non si possono fare nel giro di un giorno, insomma. Non è che metti nel carrello Zenimax e fai check out, anche perché poi il carrello è vuoto. C'ho l'immagine di Bill Gates al centro commerciale con Todd dentro il carrello che dice prendo lui e... Todd Howard e The Times a braccetto. E quindi cosa è successo? Che internet è esploso. Cioè, quando c'è stata questa notizia, c'erano i fan Microsoft in lacrime, tipo come se avessero visto la Madonna di Lourdes. I fan di Obsidian che dicevano vogliamo Fallout New Vegas 2, i fan Sony che dicevano scusa, e quindi mo The Elder Scrolls 6 uscirà per PS5, per favore, sì. Cioè, insomma, un bordello di cose. Quello che alla fine ne è uscito è che la Microsoft, diciamo, terrà fede agli accordi fatti per Deathloop e per Ghostwire Tokyo, che sono due giochi appunto di Zenimax, che erano previsti in uscita per esclusiva temporale per PS5, e quindi la Microsoft venderà giochi in esclusiva per PS5 l'anno prossimo. Ok, che bel mondo in cui viviamo. E poi, insomma, per tutti i giochi futuri sarà caso per caso, quindi secondo me faranno un po' come per Moo Studios per Ori, che è uscito anche per Nintendo Switch, ma in teoria è un titolo Microsoft. E quindi per ogni titolo, in base a fanbase, quindi cioè quante persone lo acquisterebbero su un sistema, su un altro, così, decideranno dove farlo uscire. Immagino che appunto sia più probabile che giochi futuri escano su console Nintendo rispetto a console Sony, considerata comunque la... posso dire, concorrenza un po' più diretta con Sony, anche se è un po' più rallentata grazie a Game Pass. Che è la seconda, diciamo, insomma, vera notizia, no? Cioè, tu hai adesso tutti questi titoli first party, tutti questi belli studi che sviluppano per te le loro IP, eccetera, e, diciamo, hai aumentato il tuo portfolio di titoli su Game Pass, perché la politica di Microsoft adesso è che ogni titolo che è un first party, cioè, forse dovrei spiegare tutti questi concetti effettivamente. Allora, first party vuol dire che lo studio di sviluppo, quindi effettivamente l'azienda, l'ufficio che ha sviluppato quel titolo, è in mano a Microsoft, cioè è la Microsoft che paga gli stipendi, diciamo, cioè è tutta una produzione. È una produzione interna, di solito c'è, come posso dire, più accesso diretto per quanto riguarda l'hardware, quindi c'è, se sei uno studio first party, di solito hai più il peso di dover spingere molto la tecnologia in avanti, diciamo, la tecnologia che c'è nella console, hai anche più risorse perché sei un po' la punta... che deve diamante. Vendere diamante, sì, quella che deve vendere la console, quindi come qualità, se hai più, come posso dire, controlli, appunto il risvolto negativo è che appunto hai più controlli, hai meno libertà di fare tutto quello che vuoi e di sperimentare cose assurde, di solito, dico di solito perché in realtà non è sempre così, e vedi Kojima, ho detto il nome, non si poteva dire. Però troppo presto, diciamo, sì, i first party io li definirei così, cioè sono appunto quegli studi che sono interni a Microsoft, sono come fossero parte di un unico, diciamo, gruppo di produzioni, di una grande famiglia, una grande famiglia, esatto. Quindi diciamo prima Sony aveva un sacco di, diciamo, di studi first party, tipo appunto Sony Santa Monica, che sono quelli di God of War, o magari, che ne so, Naughty Dog per The Last of Us, Uncharted e così. Adesso anche la Microsoft ha quelli di Halo 343, ha quelli di Forza e Fable, che sono Playground, quelli di Forza Motorsport, che sono Turn 10, e tutte queste nuove acquisizioni che sono 200.000, vabbè, anche Rare per Sea of Thieves. Queste nuove acquisizioni, che ne sono davvero tantissime, sono tipo 23 studi adesso, una cosa assurda. Madonna. E questi sono i first party. Poi ci sono i second party, che sono, sono un po' meno usati, un po' meno spesso, però io li definirei quelli che non sono interni a Microsoft, ma sono, gli vengono affidati dei titoli di Microsoft, no? Mm-hmm. Cioè, magari, che ne so, tipo appunto Asobo Studios per Microsoft Flight Simulator, io li considererei un second party. Non è un termine ufficiale, infatti non lo usa nessuno. Però di solito se c'è un IP, qualcosa, un progetto che un grande, cioè un publisher più grande affida a qualcun altro, questo qualcun altro è un second party, diciamo. Tipo, che ne so, prima che venisse acquisita Insomniac, che era un second party per Spider-Man, per la Sony. Adesso è un first party perché la Sony l'ha acquisita. Mm-hmm. Infatti Insomniac aveva fatto anche un altro titolo per Microsoft come second party, che era Sunset Overdrive. E poi finalmente ci sono i third party, che sono quelli che non c'entrano un cazzo. Quindi c'è, cioè, aziende esterne che pubblicano sulla tua piattaforma, quindi, che ne so, tipo Rockstar è third party per GTA, che è ovunque, no? Cioè, un third party, mm-hmm, sia per Sony che per Microsoft. Tutto questo era per dire, esatto, che appunto il catalogo titoli di Microsoft Game Pass si è arricchito parecchio con quest'ultima acquisizione. Esatto, giusto? Perché tutti i titoli first party escono al lancio, al day one, al giorno di uscita, su Game Pass. Quindi, come dire, hanno ufficializzato più o meno la data d'uscita di alcuni titoli, è questo? No, hanno semplicemente detto implicitamente che questa acquisizione, cioè, vuol dire ancora più valore, cioè c'è ancora più valore aggiunto nel Game Pass. E già hanno annunciato che tipo il 1 ottobre arriverà Doom Eternal e su Game Pass, per esempio. Bellissimo, tra l'altro, bellissimo gioco. Quindi, diciamo, tutte queste considerazioni secondo me hanno un po' ha riacceso quella che sembrava già una partita persa. Cioè, sembrava che già la Sony fosse in vantaggio per tutte le esclusive che aveva, per tante considerazioni intorno, SSD, eccetera, e che la Microsoft fosse quella con la grafica più figa e con, diciamo, le due console un po' più all'estremo, quella più potente e quella più cessa, ma che essenzialmente si servivano solo per Game Pass e per Halo. Invece ora sono diventate tutta un'altra storia, cioè anche Game Pass stesso è salito di un livello come valore, non lo so. Certamente, diciamo che in questo caso la Microsoft ha cercato di, come dire, rimontare in questa gara, in questa console war che non termina mai. In realtà sì, cioè questo era un acquisto che sicuramente ne parlano da mesi e mesi, e in parte quello che li ha convinti a farlo, secondo me, è questa idea che su Xbox non ci sono giochi. Su Xbox Game Pass è come fosse Netflix, no? Tu hai qualche film brutto, qualche telefilm scabroso, però cazzo, su Netflix c'hai Stranger Things, capito? Cioè, mm-hmm, su Netflix hai The Witcher, hai tantissimi telefilm che sono o in produzione o finiti, che sono di qualità, cioè sono almeno come budget, come produzione, come nome di rilievo. Certamente, su... sì. Diciamo che qua la Microsoft ha preso quel pezzettino un po' che le mancava, no? Perché, esatto, alla fine le altre due grandi, la Nintendo e la Sony, la Nintendo ha sempre avuto i suoi titoli personali che sono quelli che vendevano le console, e la Sony ha sempre avuto delle ottime esclusive, e adesso forse anche Microsoft ci riserverà qualche sorpresa. Esatto. Le uniche due IP, le uniche due proprietà intellettuali che secondo me mancano al parco titoli first party Microsoft sono Mass Effect e Splinter Cell, che io spero che, che la Ubisoft e la EA vendano a Microsoft, perché no, perché cioè, ripensandoci, il parco titoli Bethesda è molto, a parte forse Ghostwire Tokyo, è molto Microsoft, e anche loro hanno detto, cioè loro sono sempre stati molto in sintonia con Microsoft, in parte perché tipo Morrowind è uscito solo su Xbox, cioè il terzo capitolo di Elder Scrolls, il primo diciamo capitolo su console mi pare di Elder Scrolls, si chiama Morrowind. Vabbè, comunque per richiudere, riattaccarci al discorso. Perché diciamo... il discorso, sì. Io spero che diciamo la Microsoft porti un po' più di come posso dire, di qualità, cioè un po' che pulisca un po' i bug che hanno un po' distrutto gli ultimi giochi Bethesda, e che sia alla larga da da ID Software, insomma dagli altri di altri studi che invece sono un po' più diciamo di qualità consistente, mettiamola così. sì, insomma, la cosa che invece a livello più di produzione cambia è che ora hai da un lato meno pressioni, nel senso, ora al di là di Todd Howard che vende menzogne e dice che funziona la roba quando invece non funziona, una cosa che è cambiata molto. Sì, sì, una cosa che è cambiata molto, appunto, guardando Fallout 76 rispetto magari a un Oblivion, è proprio, cioè, mi sembra molto più di vedere un gioco fatto per i numeri. Cioè, non c'è davvero nulla che sia stato fatto per dire qualcosa, per fare qualcosa di nuovo. Mm-hmm. Io spero che questo cambi avendo più... diciamo, mettendo più in disparte il discorso di vendere copie, perché alla fine Game Pass non è un servizio... Ah, poi non so se abbiamo detto che cos'è Game Pass. Ah, Game Pass è appunto, è tipo Netflix per i videogiochi, insomma, tu paghi un tot al mese, tipo 10 euro al mese o 15, e hai accesso a una libreria di giochi. Forse l'hanno citato in episodi più vecchi, ma... Comunque, in sostanza è questo, cioè tu hai... tipo 200 giochi su Xbox e 100 e passa su PC... E però sono giochi insomma tosti, tipo appunto Sea of Thieves, Flight Simulator, Forza Horizon 4, ma capitano anche gioconi, cioè anche, come posso dire, non di prime parti, cioè roba di esse parti tosta, di Dishonored 2, Doom Eternal, questi qua, e Overcooked 2, grande gioco, giocatelo. Ai livelli di, no, di Doom. Esatto, uguale. E la cosa figa è che adesso, se hai la versione Ultimate, che è quella da 15 euro al mese, vabbè, incluso ovviamente tutti i giochi sia su Xbox che su PC, e il Gold per giocare online su Xbox, ma hai anche la possibilità di giocare in streaming sul tuo cellulare. Ora, non vogliamo fare la pubblicità a Microsoft, o meglio... Se ci pagasse Microsoft ben volentieri, però non so quanto le convenga. Però insomma, al di là di come funziona questa cosa per l'utente finale, per uno sviluppatore toglie un po' la pressione di parlare in termini di vendite, cioè perché io l'ho visto per me, cioè uno dei giochi più belli che ho giocato quest'anno e che forse sono i più belli che ho mai giocato, l'ho scoperto su Game Pass, cioè l'ho visto lì, ho detto cavolo, ho sentito sto gioco, vediamo com'è, ed era Outer Wilds, e ora non riesco a smettere di parlarne, cioè poi ci ho giocato su PC alla fine, l'ho preso su Steam, però è un bel modo per scoprire i giochi, e per gli sviluppatori è un bel modo di non preoccuparsi delle vendite, di quante copie vende un gioco. Anche perché adesso magari si può vedere un po' l'inizio di uno sviluppo, nel senso di un investimento nello sviluppo dei videogiochi un po' più come quelli che si è fatto per lo streaming, per gli streaming service, adesso come Netflix, che ha visto l'introito e ha detto lo uso per creare qualcosa di interessante che possa attirare anche gente diversa, che già non è iscritta al nostro servizio, perché tanto a quel punto una volta che la gente è iscritta non, come dire, non devi più puntare a quelli che sono già iscritti, perché quelli ti stanno già pagando. L'idea è di creare qualcosa di diverso, di più a sé stante, per attirare nuova gente che si iscriva al tuo servizio. Quindi anche lì si può vedere, forse, come dire, che iniziano un po' anche a esplorare certe parti. Per esempio, io faccio un esempio banale, tipo anche qua, per citare la nostra controparte cinematografica, parlare un po' di serie TV. Nel caso di The Boys per Amazon, io sì, qualche anno fa non mi sarei mai immaginato che uno studio potesse finanziare una cosa del genere. No, ed è stata un'ottima sorpresa, perché è molto interessante. Ma anche se andate a vedere gli ultimi episodi di Il mio salotto vicino, assolutamente, ci sarà, non so se è già uscito, ma a breve uscirà un episodio su Enola Holmes, che è un film su Netflix, che no, cioè veramente non è un film che ti non lo so, cioè ci sono film su Netflix che non mi sarei aspettato da Netflix. Sono anche film che sono molto molto da Italia 1, cioè da Netflix proprio, no? Cioè quei film che tu vedi tipo la sera su Canale 5, così su Italia 1 a tempo perso, tipo che ne so, Extraction con Chris Hemsworth, o cioè questi film qua, capito, che li vedi un po' a tempo perso, o The Old Guard, che magari sono belli, ma sì, cioè sono film quasi per la TV, cioè diciamo doppia A. Se Nolan fa film tripla A, quelli sono film doppia A, diciamo, come classificazione. E quindi c'è anche questo, mi aspetto che ci siano più titoli fatti così su Game Pass, cioè su Game Pass, come anche su Amazon, come cacchio si chiama quello nuovo, Amazon Luma, che adesso è uscito anche su Amazon, una cosa simile, proprio di recente hanno annunciato. Su Stadia un po' di meno, perché Stadia funziona ancora un po' diversamente, purtroppo non si è capito perché è ancora vivo, però vabbè, lasciamo perdere. Ne ha parlato anche Double Fine, ha detto che senza la Microsoft, o soprattutto senza appunto il Game Pass, non avrebbero potuto mettere alcuni boss in Psychonauts 2. Quindi c'è anche un fattore positivo dentro giochi, non solamente per il tipo di progetto che viene rilasciato. Comunque vabbè. Beh, giusto detto per chiudere, questo, no? Perché abbiamo fatto una bella introduzione con le ultime cose successe, e penso sia stato anche utile, come dire, dare un po' un'idea iniziale di come funzionano più in generale le case di sviluppo e cose così, perché è proprio in questo episodio in cui andiamo a parlare un po' di più di queste cose, giusto? Sì. Ho già fatto il, no? Il segue, no, come si dice? Cioè, mi sono allacciato al prossimo discorso, dovevi esatto, aggiungere ancora qualcosa? O... No, prima okay, era questo. Okay. Ci sarebbero altre 2000 cose da dire, perché è veramente una notizia bomba. Hanno fatto un'intervista, c'erano, vabbè, Major Nelson, che è un tizio, vabbè, di Xbox, Phil Spencer, che è il capo di Xbox, con Pete Hines, e mi sembra Pete Hines sia proprio di Bethesda o di Zenimax o di id, non mi ricordo, e invece Todd Howard di Bethesda. E a un certo punto Todd Howard stava parlando di Morrowind su Xbox e ha detto a un certo punto dello sviluppo non riusciamo a risolvere questo problema di memoria, non mi ricordo, memory leak, un problema, vabbè, qualcosa, un bug, e il team dell'Xbox originale ci ha detto: oh, ma sapete che potete riavviare l'Xbox senza che l'utente se ne renda conto, vero? Bellissimo. E quindi ci ha detto, quindi se vi è mai capitato che in Morrowind avete visto un caricamento di 5-10 minuti, in realtà l'Xbox si è riavviata. Non me ne sono reso conto. No, vabbè. Che genere del male. Todd Howard è veramente... Todd Howard, io me lo immagino, sai che c'abbia tipo la casa a forma della sua faccia, no? Tipo Dottor Male. Da... Madò. Cioè, è uno di quei cattivi dei film che però gli vuoi bene. Cioè, nel senso, lo capisci? Non so come dirlo, è carismatico, è... Ce l'avrà un mini-me a casa da... Che uomo. Comunque, beh, sì, scusa, andiamo avanti. Oggi parliamo, allora, questo episodio è sia collegato a quello che stavo seguendo, quindi è un po' all'ordine di... Ok, aspetta, fammi introdurre a me, perché visto che dopo parlerai solo tu, voglio far sentire un po' anche la mia voce ai nostri ascoltatori. Bravo, bravo. Ok. Come dicevamo, Jacopo ha fatto bene a introdurre il concetto delle varie tipologie di case di produzione, perché quest'oggi, appunto, parliamo dei credits che si vedono alla fine di un videogioco, ovvero quello che c'è scritto, anzi, per essere più precisi, quello che c'è scritto nei credits alla fine di un videogioco. Cioè tutte le varie posizioni, le varie, i vari ruoli delle varie persone che lavorano al gioco in sé. Quindi, introduciamo quello che la persona che parlerà di più oggi, perché è quella che ha avuto a che fare veramente con queste cose, perché lavorando in una casa di sviluppo per l'ultimo anno ormai, se non sbaglio, giusto? Circa un anno? Un anno corretto. Esatto. Un anno esatto, addirittura, perfetto. Che è appunto Jacopo, che possiamo anche dire dove hai lavorato? O... Sì, sì, sì. Ho lavorato da Sobo Studios, ma vabbè, se uno va a vedere il mio LinkedIn può vederlo, quindi non è... Ah, giustamente, beh, però bisogna dirlo. Quest'uomo ha contribuito allo sviluppo dell'ultimo Flight Simulator, partecipando appunto come cos'eri? Gameplay programmer. Gameplay programmer, non junior, quelle cagate lì che aggiungono. No, junior, sì, sì, cioè ufficialmente junior gameplay programmer, però sì, sì. Ok. Però si sa che junior è solo un modo per dirti ti paghiamo meno, quindi... Esatto. Quindi, Jacopo, io lascio la parola a te che ci farai attraversare mondi inesplorati in questo momento. Non è vero. No, stavo dicendo, questa puntata sarà meno strutturata di quelle precedenti. Perché di solito diciamo tipo... Vabbè, già si è capito perché abbiamo fatto una... Ma Jacopo, ma spiegami, ma che cos'è un team di sviluppo? E soprattutto, perché c'è bisogno di un team di sviluppo? Perché? Tu dici, perché non chiudere 20 nerd in una stanza e chiedergli dopo 3 anni cosa hanno fatto? In realtà c'era un articolo che volevo leggervi, prima mi sono scordato durante la rubrica, perché una delle storie che ho diciamo in testa in questo momento è di Ensemble Studios. Diciamo, non è la prima volta che un'azienda compra un'altra, parlando sempre di Microsoft che compra Bethesda, no? Uh-huh. Una volta Microsoft ha anche comprato uno studio che si chiamava Ensemble Studios, che erano quelli di Age of Empires. Ah. E gli hanno affidato Halo Wars, che è uno strategico, quindi appunto un gioco di gestione delle truppe in tempo reale. Più ad quindi l'Age of Empire di Halo, però. Esattamente, esattamente. Per chi ci avesse presente il tipo di gioco, insomma, gestire le truppe, le risorse e... È una guerra più ad alto livello, un po' più di gestione delle truppe, meno in prima persona come può essere Halo. E Ensemble Studios diciamo che era famosa appunto per questi titoli di strategia, tipo appunto Age of Empires, che è famosissimo. Hanno messo le auto col lanciarazzi sopra, come che si chiamavano? Quelle c'erano già purtroppo in Halo, che canoni caos. La storia però è interessante perché loro... Quando la Microsoft gli ha affidato, adesso la sto facendo molto semplificata, c'è un bellissimo mini documentario su YouTube che poi magari linkiamo nella descrizione se ci ricordiamo, però essenzialmente la storia è che la Microsoft gli ha affidato questo Halo Wars, questo Halo strategico, e metà dello studio non voleva farlo. Cioè metà dello studio di Ensemble Studios, siccome era uno studio molto, diciamo... come dire, molto familiare, c'è cioè quasi una fraternità di college, insomma, molti ragazzi che sono entrati insieme. Una vera famiglia, no? Esatto, una vera famiglia di merda. Questi qua praticamente metà dello studio hanno detto no, basta fare strategici, noi non vogliamo fare un'altra volta uno strategico, facciamo un MMO. E hanno detto, visto che comunque la Microsoft ci sta affidando lo strategico di Halo, magari per farglielo scendere giù meglio facciamo un MMO di Halo. Il problema è che la Microsoft non sapeva nulla. Cioè, l'hanno fatto di nascosto per mesi, per tipo un anno mi sa, pure forse per di più, hanno lavorato di nascosto e i capi di Ensemble Studios nascondevano la cosa, cioè dicevano a Microsoft che queste risorse, queste persone erano a lavorare su Halo Wars. Halo Wars, per capirci, Halo Wars doveva uscire dopo Halo 3, ma poco dopo, quindi Halo 3 2007, Halo Wars fine 2007 inizio 2008, è uscito un anno di ritardo dopo, perché appunto non sapevano nulla. Così, quando la Microsoft l'ha scoperto, prima di tutto ha cancellato l'MMO di Halo, e seconda cosa ha chiuso Ensemble Studios, si è detto andatene a fanculo allora. Dopo Halo voglio Wars, dire, non per farlo stronzo, però un però, pochino te la sei andata a cercare, voglio dire. Esatto, quindi c'è uno studio molto, diciamo, come dire, orgoglioso, cioè molto pieno di persone che fanno un po' per testa, non persone... diciamo pieni di talento, tipo due di questi qua di Ensemble Studios hanno fatto Words with Friends, che è una compagnia che ha acquistato Zenga per tipo 50 milioni di dollari, che è un'app famosa per telefoni. Vabbè, comunque era per dire, dentro uno studio ci devono essere tanti ruoli, tante persone per essere sicuri che le cose vadano in maniera liscia, non perché dici oh deve morire la creatività, perché basta che ficchi 50 persone a caso dentro una stanza che sono brave e può uscirsi di tutto. Però in realtà è anche in parte per garantire un po' la creatività. So che sembra strano, però mettere dei paletti, mettere delle cose può aiutare anche magari un artista, può aiutare anche un programmatore, un designer a parlare meglio, a comunicare meglio, a capire meglio le esigenze, eccetera. Quindi avere un'organizzazione dentro lo studio è comunque importante, anche se può sembrare una cosa brutta da dire, però anche... assolutamente, giusto per dire, questa penso sia una verità che vale per qualsiasi... Esatto. Per qualsiasi cosa del mondo dello sviluppo, sia che sia di qualcosa di creativo, come può essere più un videogioco, che qualcosa di... magari non meno creativo, ma forse meno divertente, come può essere il software di come si dice, del bilancio di una qualche azienda o della gestione dipendenti o cose del genere. Però un po' di organizzazione ci dovrà sempre essere. Esatto. A meno che non sia uno studio indie di una persona in cui devi fare tutto tu. Però in realtà anche lì... cioè io vedo anche con gli studi indie che vengono considerati artisti, cioè... tipo, che ne so, un autore singolo o un gruppo molto piccolo di persone, tipo, che ne so, Mike Beatle di Beatle Games, che ha fatto Thomas Was Alone, Volume, così. Comunque anche lui deve fare considerazioni del tipo quanto costa questo gioco, su quale piattaforma lo rilascio, quando lo annuncio, dove. Insomma... c'è sempre bisogno di fare considerazioni economiche, perché comunque è un prodotto che tu vendi. Non, esistono veramente pochi sviluppatori di videogiochi che sono, come dire, completamente scollegati dal mondo del, come posso dire, dal mondo della parte economica. Mm-hmm. Come magari può essere un pittore. Finanziaria del... Esatto. Cioè magari un pittore è ricco di famiglia, oppure c'ha, capito, c'ha un mecenate, qualcuno che gli paga da vivere, che lo sostenta e quindi può fare quello che vuole. Questa figura ancora non c'è. Anche nel cinema è raro trovare uno che è puramente un artista solo per appunto per fare arte, non anche per vendere, insomma. Sono due cose che spesso hanno a braccetto lì. Nei videogiochi ancora di più. Quindi c'è una struttura, c'è io cercavo di essere generico, perché ogni studio, ogni publisher ha la sua struttura, ha il suo modo di gestire la cosa, quindi che ne so, a volte neanche posso parlare di alcune cose o posso discutere, non perché siano brutte o siano spionaggio industriale, ma semplicemente perché è il modo di fare di quell'azienda, non di un'altra, ed è qualcosa che preferisco non divulgare. Mm-hmm. Però in generale, dentro un team c'è il proprio team di sviluppo vero e proprio, che è un amalgama di persone che sono quelle che effettivamente fanno il gioco, mettiamola così. Quindi, che ne so, le persone che sono sul set per fare un film, quindi, che ne so, il regista, l'elettricista, il cameraman, gli attori, le persone che fanno il make-up, quelli costumisti, tutte queste persone che sono lì sul set e che sono quelle che fanno effettivamente il film, sono il team di sviluppo, sono l'equivalente di un team di sviluppo di videogiochi. Quindi hai i designer sono persone che hanno un po' in testa quello che è un po' il concetto del gioco, l'astrazione del gioco. Quindi ha un po' in testa le regole del gioco, le meccaniche, un pochino di storia a volte. Insomma, hanno un po' la visione d'insieme, un po' il tutto, no? Dialoghi, grafica, design delle meccaniche, cioè un po' di tutto. Si specializzano poi in, appunto, designer di livelli, quindi sono quelli che hanno un po' in testa come deve essere fatto un livello di un gioco, quindi una mappa, un ufficio, qualsiasi cosa, cioè qualsiasi ambiente del gioco che sia rappresentato nel gioco, sono loro che lo pensano, che hanno l'idea in testa. A volte si fanno aiutare da un artista per disegnarlo, però hanno i loro in testa il concetto, sono loro, diciamo, le persone di riferimento per l'idea. Non sono sempre quelli che hanno l'idea, però sono quelli che la curano. Non so come dirlo, non so se è chiaro il concetto, cioè. Tu dici, se l'idea, diciamo, un po'. Partiamo con le metafore, pronto? Se l'idea, diciamo, è il seme da cui parte tutto, loro. Segno di pianta, quelli, eh? Da cui parte tutto, loro sono. Si possono definire forse l'acqua che lo fa crescere più che la struttura vera e propria in sé, inteso sono il nutrimento, no? Un po' quello che gli serve per farlo sviluppare. Esatto. Esatto, quindi a volte il seme viene da loro, che schifo, a volte viene da qualcun altro, però sono loro che sono un po' i giardinieri L'idea è di, appunto, quando è un designer, di tirargli addosso del seme e che schifo. giusto. Allora, ovviamente quello che sto dicendo io, prendetelo sempre con le pinze, perché uno, non sono un esperto, non sono, cioè io veramente ci sono da poco nell'industria e magari ne so più da esterno che da interno. Due, e questo è importante, ruoli come il designer, specialmente, sono talmente sfaccettati che a volte in uno studio ce n'è uno, in un altro studio ce ne sono 200, perché il designer può, diciamo, sotto di lui avere tanti ruoli che in altri studi sono uno per persona. Per i giochi grandi, per esempio, ci sarà uno sceneggiatore, che quindi è un po' il designer, se vuoi, narrativo, proprio lo scriptwriter nei film, cioè quello che scrive la sceneggiatura, la trama. Quindi quella persona si occupa solo di trama, solo di pensare a livello narrativo. Ovviamente avrà anche in testa il gameplay, avrà in mente in testa i dialoghi, ma lui si occupa solo della trama. Poi ci sarà il dialogue designer, quindi quello che si occupa dei dialoghi, quindi si concentrerà di più sul portare, capito, il dialoghista, no? È quello che nei film ti fa i dialoghi, quindi si occupa di pensare a come parlano dei personaggi, a come esprimono dei concetti. Magari a volte proprio entra dentro come ti posso dire, al codice del gioco. Sto facendo un po' una forzatura, però entra proprio in dei file di testo a scrivere questi dialoghi. Puoi avere anche, appunto, come dicevo prima, il level designer, puoi avere il designer che si occupa, appunto, proprio del design, quello che intendiamo noi, quindi qual è lo stile di questo gioco, qual è la direzione artistica di questo gioco, quindi il visual designer, chiamiamolo così, non so come chiamarlo in maniera generica. Insomma, puoi avere un designer per ogni cosa, qualcuno che prende insieme le idee di quella categoria, le porta avanti, le cura, le mette insieme, le rimessa, ci pensa e fa i design. Se sono bravi, se quei design sono bravi, che cosa che non è sempre vera, riescono a fare un design per molte, se non tutte le cose del gioco e a scrivere in un documento di design, dove un po' cercano di usare un vocabolario comprensibile per descrivere come deve essere fatto il gioco. Questo documento poi è usato da i manovali, gli operai, beh, i proletari dell'industria, che sono gli artisti e i programmatori. Qui artisti si intende non ah, io sono un artista, io mi invento i mondi, no, si intendono i proprio quelli che vanno lì e si mettono a modellare i personaggi, che si mettono, capito, a creare i cieli, a disegnare le cose, le mappe, cioè proprio sono quelli che hanno il ruolo di creare asset, si chiamano, cioè proprio le risorse che sono dentro il gioco. Quindi se tu per esempio in Katamari Damacy vedi, che torniamo al primo episodio del podcast, vedi una bicicletta, quella bicicletta è lì perché un artista ha creato quella bicicletta a mano, a manina, su un software, su PC. Tipo c'è ancora una, cioè quella è una ancora degli aspetti che riesco meno a, come dire, a immaginare, no? Noi con il nostro background forse da programmatori faccio ancora fatica a immaginare come si possano manovrare tutti quei poligoni e, e vertici per ottenere poi alla fine troppo... un risultato decente, perché voglio dire, la fai troppo complicata, Marco. E quando ci provo io vengo fuori le ruote quadrate, quindi no, no, in realtà lì serve solo tanta pratica, tanta proprio, non tanto comprensione della teoria quanto degli strumenti, secondo me. Cioè devi essere davvero veloce e bravo a capire come creare una forma, modificarla così. Ed è davvero, è un po' come disegnare, cioè devi davvero avere la mano per capire come manovrare questo oggetto, come cambiarlo, così, perché farlo velocemente è davvero complicato, cioè creare è quello alla fine, penso che sia il riuscire ad avere una, come dire, un livello di efficienza, ecco la parola che cercavo, giù per uno studio di questo genere, perché non ci puoi mettere un mese per fare un modello, immagino, all'interno dello studio, giusto? No, ci puoi mettere un mese, mi sembra ragionevole in realtà per alcuni modelli. Ah sì? Per alcuni modelli, però se dico fammi una lattina da mettere sullo scaffale, non ci puoi mettere un mese per la lattina e sei mesi per fare i modelli degli aerei in questo caso, cose del genere. Sì, quindi appunto, come hai detto tu adesso, magari c'è un artista che fa un, che ne so, un personaggio super importante per la storia, pieno di dettagli dell'armatura, della fisionomia, del volto, delle cose, c'hai, capito, tutti questi artisti qua. Io mi chiedo se gli artisti di Bloodborne siano usciti pazzi con i dettagli delle armature e cose del genere. Possibile. Ovviamente questi artisti non sono solo quelli che fanno i modelli, ci sono artisti, come dicevo, dei designer. Questo ruolo poi a cascata si divide un po' in l'artista che ti fa il modello e basta. Tipo, che ne so, l'artista che ti fa, ti prende degli sketch, appunto, c'è l'artista che ti fa gli sketch prima di tutto, quindi c'è un artista che fa il concept artist, cioè quello che dice, dà l'idea del designer, si mette lì, fa un disegnino di un'arma, di un personaggio così, e insieme ai designer appunto visivi e altri designer, character designer eccetera, dice ok, questa è l'idea del personaggio, quindi che ne so, il personaggio di, che ne so, c'è un gioco famoso che tutti quanti possono conoscere, Super Mario. Dark Souls. Personaggio di Super... no, no, personaggio fisso, dico, non variabile. C'è un personaggio fisso, no? Dici Super Mario, deve essere fatto così. C'è un concept artist che disegna Super Mario, quindi c'ha un po' le forme in testa, c'ha un po', capito, questo è il cappello, questi sono i colori, eccetera. E poi manda questi sketch a un artista che crea il modello, quindi dice ok, queste sono le proporzioni, questo è Super Mario in tre dimensioni, e poi ci sarà penso, un'altra persona in uno studio grande, credo che ci sarà un'altra persona che dirà: oh, questo modello di Super Mario deve avere delle, come si chiamano, delle giunture qui, cioè deve essere animabile in questi posti, quindi gli fa quello che si chiama rigging, cioè rende un modello statico di Super Mario qualcosa che qualcuno può animare in certi modi, quindi qualcosa che ha uno scheletro di solito, delle giunture. Se vuoi fare il bravo metti anche i muscoli, ma deve essere proprio, cioè, Pixar, quindi quello lasciamo perdere. E poi, capito, ci sarà un animatore successivamente che farà delle animazioni per quella, muoverà questo personaggio per fargli fare delle cose, però appunto più o meno gli artisti sono questi. Poi sono anche quelli che fanno varie texture, quindi che ne so, di che colore è il cappello, come si rimbalza la luce, eccetera eccetera. A volte hanno degli aiuti, perché tipo su Flight Simulator c'è un video dove ne parlano anche su internet, se volete cercarlo, siedono dei miei ex colleghi che stanno lì con uno scanner a scannerizzare il sedile di un aereo, per esempio. Cioè, e infatti, cioè, un weekend ho detto: scusa, prossima settimana mi aiuti a fare questa cosa? Ah no, io prossima settimana devo andare via, sto in viaggio. Ah sì, dove vai? Vado in questo posto. Ah, in vacanza? No, per lavoro. Come per lavoro? Sì, devo scannerizzare questa rotellina che non abbiamo scannerizzato l'ultima volta. Ah, okay. Stupendo. E quindi, cioè, magari se sei fortunato c'hai dei modelli oppure degli oggetti reali, come nel caso degli aerei, che puoi scannerizzare con uno scanner 3D e avere dei riferimenti di materiali, di volumi, insomma, tutte queste cose. Perché adesso i motori grafici sono molto avanzati, quindi hai bisogno di non solamente sapere più o meno il colore di un oggetto, ma devi definire il colore in base a tanti fattori che dipendono dal materiale, quindi quanto è riflettente, quanto è, diciamo, come si dice, ruvido, quanto è, che ne so, quanto esce fuori, quanto rientra, cioè ha tanti parametri per definire l'aspetto di un oggetto, come riflette la luce, eccetera, quindi è un po' più complicato di prima, però, cioè, si fa. Sono metodi per farlo. Finito questo, che comunque sono poco esperto, non so nulla di queste cose, c'è anche proprio l'ultimo, il livello più basso di manovalanza, che sono i programmatori, che è quello che faccio io. Quindi, proprio i minatori della miniera di carbone. Che per continuare, no, la metafora del seme, questi sono quelli che spalano il letame nel campo, giusto? Esatto, perché i programmatori sono quelli che appunto scrivono codice in base a questi famosi documenti di design per raggiungere delle feature, delle cose che deve avere, delle caratteristiche che deve avere il gioco finale. Quindi, per esempio, se il gioco finale deve avere, che ne so, deve avere degli aerei che ogni tanto si svegliano e fanno cose, ci sarà un programmatore che dovrà scrivere il codice che fa in modo che questi aerei si svegliano e facciano cose, cioè io. Quindi se guardate in Flight Simulator negli aeroporti e vedete altri aerei che fanno cose, aerei non altri giocatori, ma altri aerei finti che fanno cose, è colpa mia. Bella, è colpa mia. Quindi diciamo che tutta questa infrastruttura anche non è facile, quindi anche lì dentro la parola programmatore ci sta quello che fa l'engine, quindi quello che si occupa di, che ne so, devo mostrare questo aereo, come lo mostro nel gioco, quindi tutta la pipeline grafica, vabbè, qui poi entriamo in un discorso infinito di cose tecniche su come funziona il rendering nei videogiochi, però come fa ad arrivare sul tuo schermo, come fa ad essere mostrato un modello di un aereo o un modello di Super Mario? Ci sarà qualcuno che si è occupato di programmare, di fare un programma che trasforma dati, cioè 0 e 1, in... Ah, quella sembra l'immagine di un aereo. E poi ci sarà quello che invece appunto si occupa di programmare più aspetti di gameplay, di solito, quindi che ne so, quello che dice appunto, ah, se l'utente fa questo succede questo, se appunto ogni 10 minuti cosa succede a questo aereo oppure no, cioè insomma si occupa più di fare ragionamenti di meccaniche di gameplay, di implementazione di quelle meccaniche di cui parlavamo prima di designer. E poi ci sta, che ne so, il programmatore di tool che fa, quindi che ne so, degli strumenti che possono usare gli artisti per fare meglio il loro lavoro, quelli che sono programmatori di fisica, quindi come reagisce in maniera realistica a un oggetto che cade, tanti programmatori UI che si occupano di interfaccia grafica, quindi pulsanti, finestre, scritte, eccetera, tantissimi dei programmatori. Però, come dire, ci metterei in un'altra categoria di manovalanza, a parte appunto artisti, perché, ah, ci ho dimenticato, scusate, in tutte queste categorie metteteci pure i sound designer, sound artist, sound programmer, perché c'è anche ovviamente il discorso del suono nei videogiochi, mi sono scordato, è molto importante in realtà. Di solito usano gli strumenti un pochino esterni, però è molto importante anche lì avere un sound designer in un gioco. Dicevo, scusate la digressione. Per finire, diciamo, discorso di manovalanza, poi magari sicuramente qualcuno mi sa scordare, c'è il tester. Ora, io spero di non, così posso dire, venire denunciato per quello che sto per dire, okay. Perché... Vabbè, speriamo tanto, tutti in questo posto. Nessuno mi sta ascoltando di Asobo. Però Asobo per me ha uno dei team di QA migliori della storia. Cioè, nel senso, per come mi aspettavo io, un team di QA, cioè un team di tester, QA sarebbe Quality Assurance, mi sembra. Quality Assurance. Che vuol dire, diciamo, è un gruppo di persone che si occupano di assicurarsi controllo che... Controllo qualità. Di fare controllo qualità. Sono un gruppo di persone molto molto capaci, molto, cioè che conoscono benissimo il gioco, ovviamente perché lo testano sempre, ma anche conoscono benissimo di cosa si parla, come dovrebbe comportarsi. Che nel caso di un simulatore è forse leggermente più facile di un gioco, di un altro tipo di gioco, perché magari devi sapere come si comporta un aereo nel mondo reale. Quali sono i comportamenti, qual è un comportamento realistico di un aereo nel mondo reale. Però nel mondo videogiochi comunque è importante avere un tester che capisce che cosa sta guardando e capisce, ok, questa cosa non dovrebbe succedere, mm-hmm. E che magari capisce un pochino perché quella cosa sta succedendo. E quindi, piccola domanda mia, curiosità, c'erano anche ex piloti tipo nel team dei tester della Sobo? Non so se posso dirlo, e comunque non saprei rispondersi di preciso ex piloti o piloti attuali. Ah no, ok, nessun problema, giusto, quindi, però comunque gente che... Gente che macina, sì sì, che ne sa, aerei, che ne sa fatto. Ce ne sa di aerei. Gente molto disponibile, tra l'altro, a spiegare, io ho imparato un sacco di roba da loro sugli aerei, e molto simpatici, molto alla mano, lavoravano un sacco, erano, cioè, veramente bravi, e appunto, cioè, avere un team appunto di QA importante ti aiuta molto in fase di sviluppo, insomma, a beccare dei bug, dei problemi nel gioco prima che si arrivi, insomma, alla fase di testing finale. Quindi averlo interno è figo, è buono, ed è, secondo me, è una parte che nell'industria si tende un po' a lasciare in disparte, no? Perché dici, cavolo, questi sono solo lì a testare, cioè sono solo i tester, non sono... Invece, secondo me, è un po'... Dovrebbe un po' cambiare questo atteggiamento. Infatti la cosa, cioè, appunto, dici, che dicevo, vengono, bella di Asobo, Tu dici vengono molto sottovalutati? È sì. Questo che stai dicendo? Io ho letto storie che voi umani... Cioè, io un po' di anni fa leggevo un blog dove... Non so se, vabbè, piccola digressione, c'è un sito che si chiama Penny Arcade che aveva una sezione che si chiamava Tales from the Trenches, cioè storie dalle trincee. Le trincee era appunto il QA testing, il quality assurance dei videogiochi. Quindi c'erano delle storie, c'erano dei fumetti, però poi il tizio se n'è andato perché, vabbè, lasciamo perdere. E c'erano anche dei... Vabbè, tu sai a chi mi riferisco, no Marco? Tu segui sì, un po' sì. Acquisitions. Le storie sotto, che erano delle mail inviate, delle storie inviate a questo blog, di gente che ci lavorava nel QA. E c'erano delle cose, mamma mia, uffici senza bagni, gente che tipo veniva licenziata, gente che non si lavava da me, cioè insomma, vabbè, storie veramente assurde, ovviamente quasi tutte quante dall'America, però diciamo da sopra ho visto con piacere che invece il team QA era trattato molto bene ed aveva anche grosse responsabilità ed era molto, diciamo, allo stesso livello degli altri dipartimenti, insomma, che secondo me è una cosa che dovrebbero fare tutti, però vabbè, lasciamo perdere. Questo è, diciamo, il team, come dicevo prima, di sviluppo vero e proprio. Però, se avete notato, manca qualcosa. Cioè, nel senso, ok, i designer fanno questo, gli artisti fanno questo, però, cioè, i designer stessi, no? Va bene che hanno, appunto, curano le idee... così, però non sono quelli che vanno a parlare di budget, priorità, cioè non sono loro che si interfacciano con la parte reale dello sviluppo, cioè appunto risorse eccetera, quelli sono la parte reale, mi piace come definizione, cioè la parte più, come posso dire, materiale, più no reale, secondo me ci sta, è assolutamente giusto. Madonna, questa la devo dire, scusa. Mythic Quest è una serie TV su, purtroppo su Apple TV, quindi Salla starà già esultando, che parla appunto di sviluppo in uno studio di videogiochi. Se volete guardarla è divertente, è carina, ha anche un episodio fenomenale ed è molto interessante andare a vedere anche in quella serie TV un po' questi ruoli, no? Perché in quella serie TV sono un po' esagerati ma sono abbastanza realistici. Perché c'è la tizia che fa QA testing, il tizio che fa lo sceneggiatore, il tizio che fa il producer. Appunto, se volete vedere questo studio un po' come funziona, capirete magari un po' di più queste... sono un po' esagerati come personaggi, però un po' sono questi i ruoli. Però vi fa ridere perché c'è uno dei protagonisti che è il creative director, il regista del gioco, che è molto, come dire, pieno di sé, e durante l'intervista l'attore che lo fa ha detto: ah, io non ero tanto convinto di fare questo telefilm, infatti ho chiamato il mio amico che voleva farlo insieme a me, ho detto: senti, non sono troppo convinto di questo progetto, non so se, insomma, se farlo oppure no. Poi ho incontrato un tizio che stava fermo, questo era Ubisoft, era uno studio Ubisoft che hanno visitato per fare ricerche sulla serie TV, che stava fermo in mezzo a una stanza con un cappello tipo tuba e un bastone con la cima quella argentata, tipo, sai i bastoni quelli da mago, la testa di lupo da mago, esatto. E gli ho chiesto: scusa, ma tu, cioè, qual è il tuo ruolo qui? E lui si è girato, ha girato solo la testa verso di me e ha fatto: ah, amico, io creo mondi. E lui ha avuto tipo una sincope, è uscito, è corso fuori, ha richiamato l'amico: no, facciamolo subito. Quindi diciamo, all'interno di uno studio ci possono essere anche ruoli tipo game director, appunto gente che ha una visione completa, quindi non è solo designer, ha proprio la direzione assoluta della creatività, del mondo, eccetera, quindi l'autorità finale, diciamo, della direzione artistica. Ma ci sono anche figure, tipo appunto i producer, che si occupano di seguire lo sviluppo dal punto di vista dell'organizzazione. La figura del game director è un po' più rara, devo dire. Cioè, ne conosciamo uno che è nostro amico, ma ne parleremo dopo. La figura del producer invece è un po' più... C'era qualcuno vestito da mago? Se non puoi dirlo, sbatti le palpebre. Ok, e chi era qui nella stanza con me ha visto? No, cioè, la cosa più, diciamo, comune è che ci siano dei producer che in generale, mettiamola così, sono quelli che ricevono, appunto, che fanno meeting, eccetera, su budget, su tempistiche, su cose così, insomma, fanno un po' la tramite fra chi paga, perché di solito c'è un publisher, appunto, tipo, che ne so, Microsoft paga 343 Industries per fare Halo. Quindi c'è Microsoft che è il cliente, i producer sono un po'... sono quelli che sono in ogni meeting a parlare appunto di fattibilità di certe deadline, certe cose da raggiungere per il progetto, per certe cose, e sono quelli che o portano nel meeting i vari, diciamo, lead, i vari, diciamo, capi delle divisioni, quindi c'è il lead programmer, il lead artist, cioè così, e cercano di interfacciarsi un po' con tutti i vari team per capire a che punto stanno oppure quanto ci possono mettere a fare una cosa, eccetera, e fanno un po' di stime appunto a livello di tempistiche, a livello organizzativo. Sono un po', capito, quelli che si occupano di giostrare il tutto, quindi dall'alto ricevono appunto queste richieste e parlano un po' di deadline, eccetera, budget e risorse, e dal basso ricevono appunto, ne so, delle richieste di informazioni, di appunto sempre di interfacciarsi appunto tra altri team, eccetera. Sono quelli che un po', se sono bravi, riescono un po' a oliare gli ingranaggi e a levarsi le coglioni. No, scherzo. No, sono quel classica cosa del tipo, se sono bravi non ti accorgi che ci sono e... No, non necessariamente. Cioè, nel caso del prodotto del cinema, un produttore può essere anche quello che ti salva un film, per carità. Cioè, un produttore molto, diciamo, con le mani in pasta, un executive producer, eccetera, può essere uno che ti davvero salva le sorti di un film, che te lo mette in riga o che ti sblocca molto la situazione, che ti dà gli strumenti per realizzare una visione, no? Mm-hmm. Cioè, io penso, uno come Del Toro, alcuni film che ha fatto, secondo me, li ha fatti anche grazie a un producer. Ora, è vero che anche lui, bravissimo a remare contro i producer e ad aggirare delle limitazioni di budget, eccetera, come a tantissimi altri studi di sviluppo, però se hai un buon producer lo devi fare di meno, mettiamo così, cioè devi combattere, certo, di meno. E quindi ecco, diciamo, questo nella mia mente è questo che deve fare un buon producer, un producer, eccetera. Poi a volte, insomma, c'è un problema perché i producer si devono scontrare con un game director pazzo, ma questa è un'altra storia. Sono delle storie che girano per l'industria. Comunque, vabbè, direi più o meno questa è la struttura di uno studio, quindi è tutto appunto molto fluido, dipende molto dalla dimensione, dall'organizzazione. Ecco, dacci una tua idea di com'è circa la dimensione media di queste cose. Per esempio, per un gioco AAA, hai idea più o meno di quante sia? La Madonna! Vabbè, doppia, cioè, no, dai, qualche A. Qualche A. A minuscola, non lo so. Allora, non lo so, devo dire che non saprei farmi un'idea. Ti posso dire che secondo me, metti, che ne so, Assassin's Creed 1000 persone, o no, facciamo una cosa più realistica, facciamo tipo 343 Industries da Microsoft, secondo me, metti che sono tipo 500 persone, non lo so quante ne sono in realtà, secondo me la metà di quelle persone saranno programmatori, artisti, designer, okay. Una metà, poi ci saranno un centinaio di tester interni più altri vari tester, diciamo, fuori. Così tanti tester, non mi immaginavo così tanti. Sì, sì, sì, penso, non lo so, però vado un po' a naso, sto andando un po' a casaccio. E poi ci saranno tutti i vari producer, i vari tizi di... Ah, poi, scusate, dimenticavo, anche altre persone molto importanti per un team sono quelle che sono un po' in tutte le aziende, quindi c'è il team di marketing, il team di human resources, il team IT, che anche lì in questi periodi sta salvando vite, i team IT veramente. Io un giorno ho portato un vassoio di pasticcini solo per il team IT e per i tester, perché prima di tutto erano gli unici, quelli che erano lì, a dover per forza andare in ufficio durante il Covid, per diversi motivi di sicurezza e di risorse. E poi, cioè, veramente hanno salvato la vita, hanno salvato tante produzioni durante questi mesi. Quindi sì, scusate, ho dimenticato questa parte importantissima. E quindi ecco, secondo me il resto appunto sono tutti producer, IT, marketing, HR, vari, insomma, direttori creativi, eccetera. Secondo me questo è più o meno lo split, direi. Sempre andando molto a naso, magari non è così. Certo, ovviamente, poi le situazioni sono sempre uniche nel proprio genere. Sì, ma poi dipende dallo stile, tipo, che ne so, ci stanno degli studi che fanno sviluppo classico, studi che fanno Scrum, studi che fanno Agile di un altro tipo, studi che fanno... Cioè, dipende molto molto da studio a studio dove vai, anche un po' dalla produzione, perché magari c'è una produzione che c'ha più bisogno di cinematiche, di filmati, quindi è ruota tutto intorno allo stato di sviluppo delle cinema. C'è un po' un casino lo sviluppo di videogiochi, ancora non è ben definito. Ah, ecco, questo è un discorso interessante. Quindi non è ancora, lo dici rispetto ad altre cose, tipo forse quella di film o comunque produzioni, non so, animate, comunque per televisione e cinema, rispetto a quelle magari la struttura di un team di sviluppo di videogiochi è ancora difficile da definire, non solo non definita, ma proprio difficile da definire in certi casi. Cioè, a parte queste figure generiche che ho detto, cioè, secondo me sì, perché come dicevo, cioè, anche queste figure generiche che ho detto non ci sono sempre, e non sono sempre persone separate. Cioè, se c'è un team di 12 persone, non puoi avere una persona per ogni ruolo. Se c'è un team di 500 persone, non puoi avere solo una persona per ogni ruolo. Quindi, come dicevo prima, la granularità, cioè quanta roba fa una persona sola, dipende dalla dimensione dello studio, del progetto. Mm-hmm. Ok. E anche come organizzo il lavoro, dipende dalle necessità del progetto. Giusto, giusto. Ha anche il vantaggio, secondo me, di essere qualcosa di fluido. Cioè, siamo arrivati a un momento in cui, fortunatamente, molti degli strumenti usati sono molto flessibili. Cioè, se usi Unity o Unreal Engine, che sono due motori per sviluppare giochi, dall'idea al prototipo passano veramente pochi giorni, se non ore. Cioè, se devi implementare una cosa stupida, no? Tipo, oddio, non stupida, però mettiamo che tu... Ah, ecco, ti faccio un esempio. Dovevano sviluppare Psychonauts 2, cioè stanno sviluppando Psychonauts 2. Dovevano implementare in Unreal Engine 4, che è il motore che stanno usando per Psychonauts 2, una meccanica che esisteva già in Psychonauts 1. Quindi che hanno detto, ok, facciamo un prototipo, ci hanno messo non so quanti giorni, però giorni e non mesi, una persona sola, usando, cioè, ricreando questa meccanica che era essenzialmente RAD, cioè protagonista che va in giro come una palla e si muove, ma con tutte le animazioni, cioè di RAD che si ferma, che manda avanti la palla. Quindi, cioè, capisci che se hai gli strumenti giusti, una feature che magari prima ci avresti messo 3 mesi da solo, ora magari ci metti 3 settimane o 2 settimane per farla. Anche se non è completamente, diciamo, pulita e finita, modificarla ti viene più facile, toglierla ti viene più, cioè, ti piange meno il cuore. Quindi, secondo me, avere studi più piccoli che fanno iterazioni più veloci e che sono più flessibili con le loro aggiunte e rimozioni, molto di più la strategia del trial and error, quella del fare qualcosa, vedere se funziona, se non funziona semplicemente eliminarlo, cambiare percorso. Eh sì, ci fai molta più attenzione di prima, perché adesso se rilasci un gioco so cazzi, cioè, nel senso, devi essere molto attento, non è una perdita di pochi soldi, insomma, ci perdi tanti soldi, anche se è un indie. Comunque è meglio farlo uscire bene, insomma. Certo. A meno che non ti chiami appunto Bethesda e poi far uscire a merda e la comprano lo stesso. Vabbè, diciamo, vabbè. Critiche sociali a parte. Critiche sociali a parte, sì. Quindi sì, è molto più fluido di altre industrie, secondo me. Sa, quindi io non ho molto altro da aggiungere, perché qua, come dicevamo, sei tu l'esperto. È arrivato. Vabbè, se hai qualche... Ma dal mio, diciamo, dal mio punto di vista più esterno a questa faccenda, le mie domande te le ho fatte. Abbiamo dato, come si dice, abbiamo dato credito, grato credito a chi bisognava dar credito. Io penso che sia arrivato il nostro momento preferito, il momento che aspettavo. Oppure qualcosa, o dobbiamo aggiungere qualcos'altro prima di andare? Perché ah sì, forse per... l'ultima cosa... Come? Di pure. L'ultima cosa è che a volte c'è anche il fatto dell'outsourcing, cioè di appaltare, dire... Interessante. A uno studio esterno gli dici fai questa cosa e quello studio esterno te la fa. Nel caso di Flight Simulator, uno studio esterno ha fatto un'intelligenza artificiale che capisce da un'immagine satellitare come sono fatti i vari tetti delle case. Figa questa cosa. In base a delle grammatiche, delle cose, ti costruisce un po' i palazzi, eccetera, anche. Cioè, tipo, che ne so, se tu gli dici questa casa qui, in questa zona, ha questo numero di piani, quello guarda la casa, guarda il tetto, capisce che tetto è, e con una grammatica in base alle varie zone, ricostruisce come è fatta la casa in 3D. Molto carina questa cosa. C'è un video su YouTube, se volete, si chiama tipo Black Shark AI, sempre di Flight Simulator, non l'avrei. Comunque, vabbè, basta pubblicizzare un'azienda dove non lavoro più. direi sigla. Kept you waiting, huh? E siamo arrivati al momento che tutti aspettano, specialmente Salla. L'introduzione con una voce calda e sensuale. Siamo arrivati a questo. Prendete... una tazza di penna e scrivete questo nome. Yoji Shinkawa. Vi abbiamo stupito? Forse no, perché ne abbiamo già parlato. No, era giusto per... Non so, volevo dire un paio di cose sempre riguardo la nostra figura preferita, che, come dicevi tu, non è una figura che si trova sempre in un team di sviluppo, giusto? Perché lui, qual era la definizione che hai usato prima, che adesso mi sta sfuggendo, era... oddio, cos'era? Cosa? La definizione per il signor Kojima, no? Che come l'avevi definito? Io lui crea i mondi. è il regista, no? È il game director. Il director, esatto, perché non è un designer, è un director, no? E infatti qua, diciamo, si nota ancora di più la sua... nascita più come regista, forse come sviluppatore di videogiochi, e ha voluto un po' forse anche mantenere più questa idea del titolo, no? Lui è quello che dirige tutto quanto, infatti non per insultare Kojima-san, ma non penso che lui, cioè se tu gli metti di fronte l'engine del videogioco, non so quanto lui potrebbe effettivamente programmarti il videogioco a questo punto. O sto dicendo una cosa io? Non saprei dire di preciso quanta esperienza c'ha di programmazione lui. Questa è una cosa di cui non siamo certissimi, però, come dire, lui è sempre stato molto di più quello che lavorava alla storia, al mondo, all'ambientazione, faceva il regista delle scene, non faceva, fa ancora il regista delle cutscene, no? Delle quelle scene molto cinematografiche che si trovano come intermezzi nel videogioco. Ed infatti è anche per questo che, come dire, le cutscene, quelle in cui lui fa da regista, sono anche le cose per cui sono più conosciuti probabilmente i suoi titoli. Ci sono scene assurde che sono molto, molto non so se definirle hollywoodiane, perché lo stile è molto più giapponese che americano, che però hanno fatto, dicevo appunto, la storia del mondo di Metal Gear. E giusto per dire che lui, parlando di titoli di coda o di testa, quindi lui ha usato anche quelli, no, nei suoi videogiochi. No, qua è una piccola gag di chi un po' conosce la storia, è che, come dire, Kojima ci tiene a farti a ricordare a te, giocatore, chi è che ha fatto questo gioco. Infatti non è insolito che, soprattutto all'inizio, no, come titoli di testa di un film piuttosto che di coda, appare molto spesso a game by Hideo Kojima come, no, marchio di fabbrica, quasi come il simbolo del parmigiano reggiano sulla forma, giusto? Esatto. Per dare no, una definizione a questa cosa. E niente, è stato una... Però, No, di pure, scusa. Vai, ho parlato mezz'ora, scusa, pensavo avessi interrotto. No, era così, era giusto per dire, volevamo citare anche lui in questa puntata per raccontare di come anche in questo modo si potessero riconoscere i suoi giochi. È diventata una cosa ormai che la si prende molto per il culo anche questa. E così, tutto qui. Jacopo, volevi aggiungere invece? No, che appunto, cioè, lui, capito, scrive tutte le parti, diretto da Kojima, storia di Kojima, tutto di Kojima, poi in realtà, secondo me, la cosa bella di Kojima non è che lui fa il divo super, capito, creativo, cioè, è vero che avere, diciamo, un culto da personalità porta ad avere un segmento su un podcast famosissimo in Italia, però... Dovrebbe sentirsi onorato, questo. Esatto, sì. No, porta un pochino, capito, di prestigio, perché comunque... Purtroppo tirarsela aiuta ad avere un sacco di fan e gente come Mads Mikkelsen che finisce a lavorare per te, insomma, ha dei risvolti positivi per portare pregio e... Mads Mikkelsen lavorerà anche per noi. Esatto. Però dentro uno studio non porta tantissime cose positive di solito, se non che lui si è circondato di persone che secondo me sono infinitamente talentuosi, cioè hanno veramente un talento proprio spropositato. Mm-hmm. E infatti mi sembra giusto citare in questa puntata sui credits alcuni dei suoi più famosi collaboratori, no? Che hanno, voglio dire, che sono ben degni di essere citati, perché io in realtà ne ho portato uno, non so se tu ne hai altri. Ok, hai detto un nome, approfondisci, scusa. Perdonami, ma... No, vabbè, io sono quello che ho portato. In realtà adesso mi sta venendo male perché sicuramente ce ne stanno altri, però... Beh, diciamo che molti di quelli che lavoravano con lui a Metal Gear l'hanno seguito in Death Stranding. Quindi queste persone talentuose hanno, secondo me, una capacità di creare giochi alla fine molto... polished, molto puliti, non nel senso che non hanno bug, però che giochi che sembrano molto coesi, molto appunto, non so come dirlo, completi, cioè, anche sì. Completi, sì, anche un gioco come Phantom Pain, che è il gioco incompleto per eccellenza, è internamente coerente, è sistematico, è tutto... Gira nel mondo. Gira, è coeso, sì, scorre, non so come dirlo. È una visione d'insieme unica, o almeno così sembra, perché in realtà non lo è, appunto ci sono tante persone che ci lavorano, e vuol dire che hai un team molto affiatato, molto che si fidano l'uno degli altri, e uno di questi che ha sempre con lui è Yoji Shinkawa, che dicevo prima. Yoji Shinkawa è un disegnatore eccezionale, un artista eccezionale, ha fatto principalmente appunto lavori con Kojima, ed è il primo responsabile, secondo me, per il design che hanno i Metal Gear, quindi Mecha, ma anche la tecnologia di Death Stranding e alcune delle cose che ci sono in Pacific Rim. Mi sa che ha fatto anche proprio il poster per Pacific Rim. Mm-hmm. E sarà, penso, la fonte di ispirazione più grande per il futuro film di Metal Gear Solid, se mai ci sarà, perché non è detto. l'ha detto proprio il regista del film, ha detto io mi sto un sacco ispirando a Yoji Shinkawa e ai suoi design, perché anche se spesso nei giochi ci finiscono solo per alcune cose, tipo copertine, filmati o schermate iniziali, i suoi disegni sono molto molto, hanno molta influenza. La sua visione artistica è definisce un po' il look di un gioco, di solito, di un personaggio, se non direttamente quando ci finisce proprio diretto, tipo in Beast Walker o in Guns of the Patriots. Niente, solo questo, per dire che appunto Kojima non è solo Kojima, cioè quando diciamo Kojima... È tirato fuori un argomento, secondo me, molto interessante, anche che ultimamente, di solito, soprattutto per opere... letteratura certamente, ma molto anche per anche musica, un po' meno forse per i film, ma anche lì abbastanza, si parla sempre un po' dell'artista, no? Come l'unico vero creatore dell'idea, no? Si parla dei film di Kubrick, si parla dei libri di... vabbè, prendi uno, Neil Gaiman, perché mi piace. Però Neil Gaiman, per i libri è diverso. Sì. Cioè, ok, questo è il punto, nel senso, per vari tipi di intrattenimento si parla di opere di singolo artista, di singolo compositore, di singolo regista, come dire, marchio di fabbrica. Per i giochi succede un po' per Kojima, ma anche lì dicevi, tu forse non è proprio giustissimo farlo, almeno mi è sembrato fosse questa la tua un po' idea, perché sono d'accordo anch'io, cioè... è praticamente impossibile fare un gioco di qualcuno, almeno uno di quei giochi ai livelli di Metal Gear, giochi AAA e cose del genere, perché ci lavorano talmente tante persone, talmente c'è bisogno di talmente tanti designer per creare tutto quel contenuto, che il gioco a un certo punto smette di essere un po' l'idea di una singola persona e diventa più un'idea collettiva, no? Di questo collettivo di persone che ha iniziato a costruirlo. Sì, questo... però questo è vero, però come nel caso appunto di Tarantino, Nolan, cioè di grandi registi che riescono a dare un'impronta unica ai loro film, a dare appunto il senso che tu stia guardando un'opera di una persona sola, mm-hmm. Per me è anche, come posso dire, è anche bello avere in un'industria una persona capace di darti quel senso di unica visione, anche se è un team di tante persone, perché vuol dire che si è circolato di persone molto valide, di vari, che ne so, editor e team di effetti speciali, cioè persone talentuose che sono capaci di portare una, come posso dire, a termine un'impresa difficile e farlo seguendo le intenzioni di un regista che non sempre sono chiare. Magari sì, a volte sono ben definite perché sa quello che vuole, ma a volte no. Quindi, cioè, appunto, come dici tu, da un lato è un collettivo di persone, però dall'altro è anche una visione, è anche una capacità di dirigere queste persone, che un po', cioè, non lo so. No, ci sta. Come dire... Ecco, forse era giusto per dire che il mondo dei videogiochi è quello in cui ancora si fa più fatica a trovare una linea. Quando è che un'opera diventa di una singola persona quella di un gruppo di persone? Quando è che, come dire, bisogna accettare che c'è tutto il genio di Kojima dietro o c'è anche qualcun altro che... Quindi, no, no, devi accettarlo, però è come dire... Cioè, che ne so, ok... Guardi un film Marvel, che ne so, guardi tipo Winter Soldier, che per me è stupendo, e dici ok, è un bel film, o meglio, io dico è un bel film, però i registi, cioè i fratelli Russo, non è che hanno reinventato la ruota, cioè hanno fatto un film bene. La loro visione non era sto cosa, capito, rivoluzionaria, però aveva gente comunque capace intorno, così, e hanno fatto un film. Quello per me è un film fatto da un gruppo di persone, bene, eccetera. Un film di Tarantino è un film di Tarantino. cioè non so come dirlo, è la luce, i costumi, il dialogo, la storia, il montaggio. Ora, in realtà, se tu guardi, questo facciamo una digressione di cinema, se guardi The Hateful Eight, il montaggio è diverso da Django Unchained o da Bastardi senza gloria, perché gli è morta l'editrice. La tizia che gli faceva il montaggio dei film, l'editor, è morta e se l'è fatto da solo, e si vede, perché è peggio, cioè è peggiorato come montaggio Tarantino. Quindi si può dire che, perdendo una persona del suo team, ha perso un po' di Tarantino, cioè ha perso un po', però è rimasto il resto, non so come dirlo. Interessante, quindi, se lo dici, quindi alla fine il Tarantino è come un'entità a più testa, a quel punto. Esatto, tipo Hydra. Cosa. Mi piace. È bella, è interessante, no? Cioè, Ken Levine non è Bioshock e non è solo una persona, è quello che rendeva Bioshock Bioshock, che è anche in Infinite, che cioè non lo so, c'è un altro esempio sempre in campo di videogiochi, perché ce ne sono pochi, cioè come si chiama quello di The Last of Us? Non, purtroppo faccio fatica, aspetta che lo cerco rapido rapido, vediamo. Mi sembra che sia Neil Druckmann, quello che ha diretto The Last of Us. Sì, dovrebbe, può essere che siano una coppia, Neil Druckmann e sì, è un'altra. Ah, dici i due, sì, ma il primo forse erano Non lo so. Neil Druckmann è un designer. Facendo fatica a trovarlo. Comunque Neil Druckmann è giusto, quello è sicuro. Ok, il primo è stato diretto da Neil Druckmann e Bruce Straley. Ah, un altro, ok. Vabbè, questi due magari dici, ok, il gioco non sembra che abbia una direzione magari, come posso dire... Non voglio offendere nessun fan di Last of Us. Non è un gioco che ha una direzione chiara e unica, come magari può essere Death Stranding o Metal Gear Solid o Bioshock, però verso la fine là non so come dire, cioè, magari all'inizio magari non sembra, all'inizio hai tutte queste piccole, questi piccoli dettagli, queste piccole cose che te lo fanno intuire, però solo dopo averci giocato un po' capisci la profondità di alcune cose, cioè ti stupisce in altre, non so. Quindi secondo me è anche una cosa che magari trovi durante la strada in un videogioco. È più difficile da quantificare, perché in un film magari lo puoi vedere da un fotogramma. Non so se mi sto spiegando bene. No, penso di aver capito cosa intendo. Dici, il film era come dire, l'unità atomica del film, sto tirando fuori parole. Wow. L'unità atomica del film è il fotogramma, mentre l'unità atomica del gioco è forse più l'esperienza, quindi come dire... Esatto. È quello il punto, no? Se riesci a definire il film di qualcuno dall'atomo del film, cioè il fotogramma è una cosa, per un videogioco è comunque l'esperienza in sé, quindi non è proprio un secondo, non ci metti un attimo a definirlo, è quello che stai cercando di dire? Sì. Ho inteso bene? Ok. Questo non è parte del problema, però vabbè. No, questo momento Kojima... Beh, questo momento Kojima si è espanso, no? Come dire, come un qualcosa che parte, che sembra un semplice videogioco di spionaggio e poi si rivela essere una critica sociale al... al mondo dell'informazione, a come sarà il futuro e cose del genere, giusto? Esatto. Quindi c'erano altre facce dietro la medaglia. Quindi, esatto. Dopo tutte queste digressioni filosofiche che ci piace sempre lasciare, no, all'ascoltatore, quindi Salla, divertiti, noi direi che abbiamo detto tutto per quest'oggi. Esatto. Quindi, che altro dire se non grazie per averci ascoltato. Speriamo che la puntata vi sia piaciuta. I nostri titoli di coda sono... René Ferretti, regista. biascica elettricista. Nel ruolo di scrittori, si può così, voci parlanti, e producer, director, designer, researcher e cazzi e mazzi. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E continuate a giocare. Ah merda, mi sono scordato di fare stop.